Zeus, rivolgo la vista. Ehi, figlio caro, non è mica così semplice come pensi tu, sai, caro. Io non posso disfare ciò che l'altro Dio ha fatto, minchiate. Era o non era il re degli dèi? Quindi avrebbe potuto fare quello che gli passava per la testa. No, no, no. La verità era che lui temeva la reazione della cara consorte. Quindi mi disse, senti caro, per risarcimento ti posso dare il dono della preveggenza, cioè di vedere il futuro. E in più voglio essere generoso, ti do da vivere 7 esistenze non continuative. Che altro potevo fare? Accettare. E così mi ritrovai cieco, indovino, e con una gran quantità di tempo da vivere. Per onestà, devo riferire un'altra versione sul mio accecamento dovuta al poeta Callimaco nell'Inno V. Dunque, Callimaco racconta che un giorno mia madre Caricro mi disse di accompagnarla su Citerone perché voleva incontrare la sua amica, la dea della sapienza, Atena. Atena si era fatta su Citerone un suo privato istituto di bellezza. In un boschetto c'era un gran laghetto, poi c'era un laghetto piccolissimo a specchio, e tutto attorno aveva cosparso di quel centinaio di creme che le donne adoperano, la depilante, la strizzava bene. Quando mamma e io arrivammo, la trovammo completamente nuda, che stava facendo i suoi lavacri. Un detrattore mio medievale ha scritto che io diventai un guardatore insaziabile. Vero è. Di fronte alle splendide forme della dea non riuscivo proprio a respirare, quasi, guardavo, perché, vedete, quella era la dea della sapienza, perciò tutto il sapere del mondo erano dentro quelle membra, stava lì, non c'era centimetro della sua pelle che non emanasse sapere. E quindi, guardando il suo lato B, io mi feci di colpo persuaso che il mondo non poteva che essere rotondo e non piatto come credevano i miei contemporanei. Ora, dice Callimaco, che la dea, indignata per il mio troppo guardare, ma cieco, non è vero. La dea, quando mi vide che io la guardavo con gli occhi letteralmente fuori dalle orbite, mi disse, ah ragazzi, e che è? E guarda dall'altra parte, no? Io guardai dall'altra parte e la cosa finì lì.